Intanto la prima cosa che mi sento di dire rispetto al dibattito che assisto anche sui social, mi permetto di dire che forse bisognerebbe avere un po' più di competenze per esprimere un'opinione in merito, perché purtroppo si fa tanta confusione, nel senso che qua c'è un provvedimento in cui prova a regolamentare le aperture delle superfici commerciali e si tende nel dibattito che sento a confondere questa necessità, che io credo sia una necessità, con tutta una serie di altre tipologie di lavoro che sono riconducibili ai servizi essenziali. Certo che se uno mi dice la domenica devono essere stare a casa tutti i lavoratori o meno, c'è una bella differenza se si parla di centri commerciali o se si parla di ospedali piuttosto che forze dell'ordine, piuttosto che vigili del fuoco. Intanto io mi sentirei di dire che per parlare dell'argomento bisognerebbe provare ad avere un po' di competenze in materia. Luigi Di Maio anche oggi ha detto che non si tratta di una chiusura ma di una rotazione, forse come c'era prima di quel fatidico 2011? Sì, adesso ancora la proposta di legge la dovremmo analizzare in ogni sua parte. Diciamo così che prima del 2011 c'era un sistema che prevedeva comunque alcune domeniche di apertura, diciamo che erano 13 domeniche di apertura di solito coincidenti con le festività di Natale. C'era la possibilità per singoli territori di concertare in sede istituzionale l'eventuale necessità di ampliare o meno questa necessità rispetto ai flussi turistici piuttosto che altre cose. Lo spazio che dava la possibilità sia alle organizzazioni del lavoro che alle associazioni di imprese di provare a tenere conto delle varie necessità, da una parte in un qualche modo l'apertura delle superfici commerciali, dall'altra parte l'esigenza di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei lavoratori del commercio. Intanto mi permetto di dire che se si ritorna in un qualche modo a svolgere un ruolo come istituzioni locali, associazioni di rappresentanza datoriale e organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori di quel territorio, credo che sia più che opportuno. Mi permetto anche di dire che se si ragiona di consumi non c'è la necessità di tenere, così come ha fatto il decreto Monti, aperto 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno, compreso le festività, e addirittura la possibilità di aprire 24 ore al giorno, perché il decreto Monti è questo che prevede, senza nessun tipo di intervento o di verifica da parte delle organizzazioni sindacali e rappresentanza dei lavoratori, ma anche delle istituzioni preposte. Adesso, ci possono essere anche dei problemi di sicurezza rispetto all'apertura 24 ore su 24 piuttosto che tutte le domeniche, anche di viabilità territoriale e di impatto ambientale. Cioè, ci sono ragionamenti che stanno in capo, secondo me, a un confronto che deve essere per forza di cose localizzato. Poi, essendo anche un po' di parte, mi viene da dire che se proviamo a limitare il disagio dei lavoratori e a organizzare una proposta commerciale che tenga conto del fatto che devi tenere la grande distribuzione organizzata, ma mi viene da dire anche la piccola distribuzione, oggi particolarmente in sofferenza dal decreto Monti in poi, perché spesso e volentieri, non avendo dipendenti, si trovano in difficoltà in un qualche modo garantire la competizione con le grandi superfici di vendita rispetto alle aperture domenicali. L'altra cosa che mi permetto di sottolineare è che le liberalizzazioni del decreto Monti non hanno portato in questa regione, ma mi permetto di dire in tutta Italia, né posti occupazionali in più né aumento di vendite, visto che gli obiettivi del decreto Monti erano questi, e su questo che secondo me bisognerebbe provare a fare il ragionamento. Dappertutto, malgrado la polemica che ne è uscita, non è che si perderanno posti di lavoro, verranno solo riposizionate le vendite durante la settimana, cosa che oggi è successo attraverso il fatto che i grandi centri commerciali hanno avuto la possibilità di aprire la domenica, hanno fortemente spostato la scontistica sul sabato e in modo particolare la domenica per indirizzare il consumo sulla domenica, ma sono consumi che è perso durante la settimana o che si sono mangiati da territorio a territorio, da punto vendita a punto vendita o da centro commerciale ad altra catena distributiva. Non è che sono aumentate le vendite in questo territorio come in tutta Italia, così come non è aumentata l'occupazione, abbiamo solo creato un disagio di frammentazione degli orari di questi lavoratori, tra l'altro impegnati per lo più con contratti part time e con delle difficoltà organizzative veramente complesse. Tenete anche conto che per consumare, visto che il nastro di apertura degli orari è dalle 9 della mattina alle 22 di sera, io credo che qualsiasi utente o consumatore che si voglia, che abbia bisogno di fare spesa o andare a prendere qualsiasi cosa di cui ritenga di aver bisogno, per quanto sia lavorare, dalle 9 alle 22 di sera credo ci siano tutti gli spazi sufficienti per poter fornire un servizio adeguato. Un servizio che, mi sottolineo di nuovo, non è un servizio essenziale. In questi anni c'è qualche catena della grande distribuzione che è tornata indietro e ci ha ripensato dicendo che la domenica tenere aperto non era conveniente? Sì, abbiamo qualche singolo episodio di qualche singolo punto vendita che eventualmente ha deciso rispetto a un primo tentativo di tenere aperto tutte le domeniche, ha ridimensionato le aperture domenicali, ma non in maniera consistente, perché in realtà il problema di questo settore, essendo estremamente competitivo, è che finché ti apre il centro commerciale di fianco, tu tenderai a tenere aperto. Se non riesci a competere perché magari non vendi in quantità sufficiente per poter reggere l'apertura domenicale, rientri di quei costi che sono aggiuntivi di apertura domenicale attraverso la riduzione del costo di lavoro, quindi magari prendendo qualche contratto a termine in meno o diminuendo il servizio a disposizione dei clienti, magari meno banchi serviti, più takeaway, meno personale all'interno delle strutture, quindi anche penalizzando in un qualche modo il servizio che dai al consumatore, e questo lo fai di solito, questo aumento di costi lo scarichi costi del personale durante la settimana, quindi maggior ragione i primi giorni della settimana, dal lunedì al giovedì.